In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché non sapete né il giorno né l'ora. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Non ci sono parole più appropriate di queste oggi in questa meditazione dopo quello che è successo questa notte. Tutti noi abbiamo saputo di questo terremoto e alcuni di noi l'abbiamo proprio avvertito. Io l'ho avvertito fortemente, veramente fortemente. Ho sentito tutte le scosse e veramente ho pensato come in un attimo può cambiare la nostra vita repentinamente. Può cambiare in una maniera incredibile, proprio possiamo in un attimo perdere tutto, perdere la casa, perdere gli affetti, perdere il lavoro, perdere tutto può cambiare in un attimo. Che cos'è che però rimane invariato? Che cos'è però che non può cambiare? La presenza di Dio nella nostra vita e l'amore di Dio per noi. E voi mi direte, e questo è l'amore di Dio per noi? Com'è possibile che Dio ci vuole bene se succedono tutte queste cose? Ecco, ricordiamoci che non siamo fatti per vivere in eterno su questa terra. Tutti dobbiamo ritornare dal nostro Padre, tutti dobbiamo ritornare in cielo e dobbiamo ritornarci pieni, carichi di frutti, di opere buone, carichi di amore. Ecco, questi episodi, questi eventi, sebbene siano degli eventi drammatici, veramente drammatici, tuttavia non sono questi la fine del mondo, ma questi ci aiutano in un certo senso a tirare fuori le nostre energie di amore. Quante persone questa notte si sono rese solidali, quanti atti di amore, quanti atti di carità, quanto conforto. Le persone hanno saputo dare agli altri e tutto questo perché? Perché quando si è nel bisogno si sente il proprio fratello, si sente più vicinanza per chi soffre, per chi è nel dolore. Quando noi sperimentiamo accanto a noi persone nel bisogno, siamo più propensi a uscire fuori da noi, a relativizzare tutto quello che reputavamo importante, diventa in secondo piano. Allora io vorrei in questo oggi riflettere sia sul fatto che tutto può cambiare, l'unica cosa che non cambia è che Dio è sempre con noi e che l'amore vince, l'amore vince. Questo sicuramente non cambia, però vorrei anche soffermarmi su questo. Come è importante dare spazio agli affetti e alla famiglia, alla famiglia. Io mi riferisco soprattutto alle persone che vivono difficili relazioni nella famiglia, alle persone separate, alle persone divorziate, alle persone che non si possono più vedere, si erano scelti, adesso non si possono più vedere. Ecco. Cerchiamo di volerci bene, di non farci del male gli uni gli altri, perché veramente il giorno viene in cui dovremo rendere conto al Signore della nostra vita e il Signore non vuole giudicarci male, ma vuole invece darci modo di convertirci e di mettere l'amore vero al primo posto. Cerchiamo di volerci bene, di amarci, stiamo pochi anni su questa terra, cerchiamo di amarci e non di danneggiarci. E l'ultima cosa che vi vorrei dire è come è importante in questo momento di sofferenza renderci provvidenza per gli altri, perché esprimere una parola di consolazione, di amore, di affetto, uscire fuori da noi. Mi colpiva la voce di un soccorritore che ha tranquillizzato una signora anziana. Ecco, quando sentiamo qualcuno che ci è vicino e che ci sta soccorrendo. E questa signora voleva essere liberata subito dalle macerie e questo soccorritore le ha detto: "Ma lo sa, signora, perché la facciamo attendere? Perché per non farle male. Perché se io la cerco di togliere subito dalle macerie, le faccio crollare tutte le macerie addosso. Se aspetto anche altri soccorritori, riesco a non farle male e a renderla libera dalle macerie." Quindi confidiamo nel Signore e se il Signore si fa attendere è perché non ci vuole fare del male. Buona giornata.